1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:17 minuti e forza, cari ascoltatori, che l'83esima settimana decisiva per la riforma elettorale oggi si chiude. Con un nulla di fatto anche stavolta, anche per l'abolizione delle province, nulla di fatto. Ma l'84esima settimana decisiva è alle porte. E allora confidiamo che possa andare meglio. Oggi torneremo su questa vicenda di Roma. Avremo ospite il sottosegretario all'interno Domenico Manzione, colui che abbiamo avuto già ospite, si occupa della gestione degli immigrati, tra le altre cose. Avremo il direttore del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro, avremo l'assessore al Comune di Roma Cutini, colei che invece era considerata inavvicinabile nelle intercettazioni. E poi torneremo sulle occupazioni delle scuole, dopo che il sottosegretario Faraone ha scatenato un putiferio. Oggi avremo Mario Rusconi, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Insomma, piatto ricco, andiamo subito a leggere i giornali. Questo venerdì 5 dicembre, ebbene sì, l'avevo detto prima, è il mio compleanno, auguri, grazie a tutti, applausi dalla regia, grazie. Vi abbraccio e vi saluto a tutti coloro che mi faranno gli auguri e anche quelli che mi manderanno a quel paese. Il Sole 24 Ore apre così: stimoli BCE in stand-by, seduta nera per i mercati. Mentre il Corriere della Sera: Europa ferma la spinta di Draghi dopo che sono state riviste appunto le stime di crescita. E ancora mafia, il sacco di Roma, questa è l'apertura per Repubblica. La Stampa invece si spinge oltre: Roma, ipotesi commissario. Lo scioglimento del comune nelle ipotesi del prefetto. Il Messaggero: soldi ai politici, così li pagavo. E la confessione della segretaria di Buzzi in carcere. Il Giornale: il ministro mangia e piange. La vicenda del ministro Poletti fotografato a cena con Buzzi e altre persone. Libero: la cupola romana lucrava 20 milioni l'anno sulla casa. Il Fatto Quotidiano: la tesoriera di Mafia Capitale, così pagavamo i politici. Queste alcune delle aperture, voglio subito andare a leggere i giornali proprio perché partire dall'ipotesi scioglimento. Oggi il ministro all'interno Alfano fa un'intervista a pagina 3 del Messaggero dicendo: sciogliere il Comune di Roma, andiamoci coi piedi di piombo. Intervistato da Barbara Yerkov alla seconda, terza domanda, dopo aver spiegato che il prefetto di Roma può far partire la vicenda, ma poi il Consiglio dei Ministri deve analizzarla, insomma una procedura molto lunga e complicata. Alla fine, alla terza domanda su questo tema, Alfano insiste e dice: mi pare che lei stia insistendo su questo punto, allora sarò più chiaro. Sullo scioglimento del Comune di Roma andiamo tutti, io per primo, coi piedi di piombo. Ricordo peraltro che stiamo parlando della capitale d'Italia e che stiamo parlando di una città sana nella quale va punito chi ruba, non la città. Una città sana, così dice il ministro Alfano, intervistato dal Messaggero. Certo, sul Manifesto il capo dell'anticorruzione Raffaele Cantone, sempre a pagina 3, è esplicito: gli appalti romani sono a rischio. Intervistato da Eleonora Martini, scrive, dice Cantone: il sindaco mi ha chiesto un incontro per parlare delle vicende degli appalti sui quali indaga la Procura di Roma e per chiedermi un ruolo di controllo su una serie di opere. Ha intenzione di creare un pool apposito, chiede il Manifesto. Non ho parlato di nessun pool perché non è prevista la possibilità di creare pool. Ho risposto a Marino che verificheremo quali sono le possibilità di intervenire attraverso i nostri poteri di vigilanza, controllo o anche commissariamento su appalti specifici. Dunque fa capire Cantone che gli appalti a Roma a questo punto sono tutti a rischio, anche se la Regione ha fermato per il momento gli appalti, ma Cantone potrebbe intervenire, come dire, con la sua autorità, l'autorità all'anticorruzione. Certo, però la polemica sulla cena famosa di Poletti, c'era anche Alemanno in questa cena e c'era anche Salvatore Buzzi, il capo della cooperativa 29 giugno, considerato il braccio destro di Carminati in questi affari da cupola mafiosa, come dice la Procura di Roma. E beh, questa cena torna prepotentemente sui giornali. Ieri Roberto Saviano su Repubblica chiedeva a Poletti di spiegare, il ministro al lavoro oggi scrive una lettera che Repubblica mette a pagina 39 E Poletti scrive così: caro direttore, rispondo a Roberto Saviano. Il solo fatto di vedere il mio nome associato a queste indecenze mi fa star male. Alla foto pubblicata in questi giorni dai mezzi di informazione potrei affiancare una galleria di belle immagini che mi ritraggono in tante occasioni legate alla mia attività di presidente di Lega Coop. Come presidente ho partecipato a iniziative e assemblee di 14.000 aderenti, un'esperienza la cui validità trovava conferma nella storia delle persone, tra le quali Salvatore Buzzi, che avevano promosso la costituzione della cooperativa, un esempio concreto della possibilità di riscattarsi dagli errori del passato, perché Buzzi aveva una condanna per omicidio scontata in carcere. Insomma, una possibilità di cambiare strada nella quale ritengo sia giusto continuare a credere. Questa è la risposta che mi sento di dare agli interrogativi sollevati da Saviano. Provo grande rabbia e mi sento tradito. Sono sconcertato e amareggiato dalle notizie relative all'inchiesta. Tradito perché sento che sono stati feriti i principi e i valori in cui credo e per i quali insieme a tante altre persone mi sono impegnato per una vita. E poi, appunto, ecco, in questo momento ciò che mi angustia sono le conseguenze dirette delle centinaia di soci della cooperativa 29 giugno. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali si difende così. Il giornale lo mette in prima pagina, il titolo è questo: il ministro piange, mangia e piange. Alla cena con la cupola festeggiava una strana anomalia nel pagamento delle sue coppe. Ora si dispera, ma scrive il giornale, dovrebbe dimettersi. Alessandro Sallusti in prima pagina, il suo editoriale. Giuliano Poletti, ministro del lavoro, ex grande capo delle Coop Rosse, non si dà pace per essere tirato in mezzo nello scandalo della cupola romana. Sono indignato e sto male. Ma scrive Sallusti, c'era un'anomalia nei pagamenti. Mi spiego, se un'azienda aveva dei crediti col comune di Roma non vedeva un euro perché nelle casse pubbliche non c'era il becco di un quattrino, e molte sono fallite per questo, ma per le Coop Rosse Poletti e soci si erano inventati la formula detta pro soluto. Il comune garantiva le banche che pagavano subito i compagni. Un bell'affare, insomma, in deroga a qualsiasi prassi esistente e, secondo l'assessore di allora Umberto Croppi, di fatto illegale, oltre che onerosa per via degli interessi che dovevano essere riconosciuti alle banche. Dunque, il ministro oggi piagnucola, ma non ci commuove, scrive Sallusti. Anzi, ci sorprende che Renzi sia stato tanto veloce a commissariare il PD di Roma, ma non dia segni di voler licenziare il ministro del lavoro. Forse tirarsi contro il colosso delle Coop è davvero troppo. Rottamare Bersani è un conto, ma toccare la cassaforte della sinistra non è cosa da ragazzi. Peccato. Così Sallusti sulla vicenda Poletti e la cena. C'è anche il graffio di Iena a pagina 3 della Stampa: la cena di Poletti vista da Dante, più che l'onor poté il digiuno. Tra l'altro, a proposito di Salvatore Buzzi, il Fatto Quotidiano scrive a pagina 5: era alla cena del premier all'Eur, portato dal PD di Roma, la famosa cena, una di quelle che è stata fatta a Roma per il fundraising, raccogliere fondi per il Partito Democratico, racconta Wanda Marra, pagina 5 del Fatto Quotidiano. Salvatore Buzzi era alla cena del fundraising del PD, portato dal Partito Cittadino, magari da Mirko Coratti, allora presidente del Consiglio Comunale, ora dimissionario perché indagato. Anche lui seduto a uno dei tavoli del Salone delle Tre Fontane di Roma. C'era anche l'assessore Ozimo, anche lui si è dimesso. Mentre non c'era Luca Odevaine, anche lui finito tra gli indagati. Ma, scrive il Fatto Quotidiano, assicura, c'era invece Buzzi a questa cena col premier. Vabbè, che vicende. Il Papa ha detto di non speculare sui poveri, come il titolo di apertura del quotidiano Avvenire. E invece sui poveri speculavano, e come milioni e milioni fatti con la gestione dei campi Rom e milioni con la gestione dei migranti. Noi fatturiamo 40 milioni l'anno, il clan si arricchiva su profughi e Rom. Pagina 8 di Repubblica, Fabio Tonacci e Maria Elena Vincenzi racconta il meccanismo. In 6 mesi famo doppietta, prometteva Carminati a imprenditori interessati a fare affari con l'immigrazione. E ora si indaga anche, scrive il Corriere della Sera, o comunque c'è un filone delle primarie del PD, dove qualcuno notò stranamente la presenza di moltissimi rom a votare alle primarie del PD. Perché tutti questi rom? Vabbè. Forse c'è un filone su cui si può indagare anche su questo. Noi continueremo anche a parlare della questione delle scuole. Oggi Davide Faraone, sottosegretario alla pubblica istruzione, ha fatto un intervento sulla stampa qualche giorno fa, suscitando il putiferio, giustificando le occupazioni, dicendo dalle occupazioni e dall'autogestione delle scuole arrivano a volte delle esperienze fantastiche, come è successo a me. Oggi fa un'intervista sulla stampa, dopo che è deflagrata questa vicenda, dicendo: non torno indietro, le occupazioni servono a crescere. Illegali, è vero, ma la scuola non è solo didattica. Insomma, quindi illegali, ma difese ancora, mentre i presidi si arrabbiano. Ieri, tra l'altro, al liceo Tasso, racconta il Corriere della Sera, c'è stato il tentativo di intervenire da parte di Civati del PD, è stato cacciato da alcuni professori arrabbiati. No, lo racconta Repubblica con Corrado Zunino. Genitori contro figli, picchetti dei prof. Questa volta sono i prof che hanno picchettato e hanno impedito a Civati di entrare, dicendogli: lei sta rinfocolando l'occupazione, non è un buon esempio. Gli grida in faccia una prof intabarrata. Applausi ironici. Si vergogni, Civati, lei legittima l'illegalità. Questo è un posto di lavoro. Non si stupisca se i ragazzi poi diventano delinquenti. Il vicepreside è il più duro. La preside invece, Maria Latina, Terrinoni media, il professore Emanuele Lelli, Lettere Classiche, dice: tutto il corpo docente è contrario a questa occupazione, sottrarre 2 settimane alle lezioni è proprio un problema per chi ha la maturità, soprattutto a giugno. Insomma, Civati, che doveva andare a parlare in corridoio dove già sono state sistemate le sedie, corre via alla camera e gli studenti gli urlano a quel punto: sei un vigliacco, e i professori: abbiamo fatto bene. Insomma, il risultato è che Civati è dovuto, con le pive del sacco, ha dovuto rinunciare a questo ingresso alla scuola Tasso, al liceo Tasso, per parlare con gli studenti. Vabbè, ma siamo al momento dell'articolo che mi fa pensare di questa giornata. Il premio Mani sul Volante oggi va a Libero, che dedica mezza pagina a che cosa? Alla casta della Commissione Europea. Sapete quanto ci costa? 7,2 milioni l'anno. Sapete gli stipendi dei commissari quanto sono? 20.832 euro lordi al mese. Ai vicepresidenti di più, 23.147 euro lordi al mese. Tra questi c'è anche Federica Mogherini. Ma soprattutto, la cosa che fa incazzare è che quando finiscono, come Van Rompuy, l'ex presidente della Commissione Europea, si prendono una buona uscita da 350.000 euro spalmati su 3 anni, cioè circa 115.000 euro l'anno, più 9.000 euro, no, più 4.700 euro al mese di vitalizio da quando avranno 65 anni. L'Europa rigorosa, l'Europa dei conti precisi, li sanno fare bene i conti, bravi, bravi. E ridono, cosa ridete? Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo. 24 mattino. Allora ringrazio tutti quelli che mi stanno mandando gli auguri, c'è anche chi mi scrive: un altro anno è già passato, tanti auguri al debosciato. Va bene, grazie Matteo, auguri anche a te, ovviamente, se non è il tuo compleanno, pazienza. Chi mi scrive: tutti stasera a mangiare d'arciccione? No, da erbruttone. Io da 3 giorni che non ho scritto anche a Rossella Brescia, alla quale mando ovviamente come sempre un grossissimo abbraccio caloroso, a dire: mi aiuti a capire erbruttone dove? Ma avete scritto in tanti, con l'insegna proprio da erbruttone. Lì si riunivano tutti: Ercecato, Erforfor, Erwatson, Rommel, Chiattone, Erciccione, Ermaialotto, Erporcone, andavano lì tutti da Erbruttone. E allora tutti a cena da Erbruttone stasera, se volete, per il mio compleanno. Paga lo Stato. Allora, per quel che riguarda la BCE, certo, ieri è stata presa una decisione importante, o meglio, la BCE ha abbassato le stime di crescita E questo ovviamente ha avuto una ripercussione intanto sulle borse, borse deluse da Draghi, come racconta Il Sole 24 Ore, ma soprattutto la decisione è una decisione, come racconta Alessandro Merli a pagina 3 del Sole, con il taglio drastico delle previsioni di crescita e di inflazione per i prossimi due anni, ammettendo così che l'inflazione potrebbe scendere addirittura a zero. E si fa così un altro passo verso un'azione di stimolo che a questo punto comprenderebbe con ogni probabilità anche l'acquisto di titoli di Stato all'inizio del 2015, forse già il 22 gennaio, da parte della Banca Centrale. E allora nei prossimi mesi, o meglio nei primi mesi del prossimo anno, il Consiglio valuterà gli sviluppi della situazione che nelle ultime settimane ha visto aggiungersi alla debolezza dell'inflazione il crollo del prezzo del petrolio, oltre all'impatto delle misure prese finora, e si deciderà sul da farsi. E attenzione, perché su questo c'è stato, come raccontano tutti i giornali, uno scontro duro all'interno del board della BCE tra il nostro presidente, nostro nel senso italiano, presidente della BCE Mario Draghi, e soprattutto i tedeschi. Sempre Alessandro Merli a pagina 3 racconta bene questo retroscena: sarebbe illegale non perseguire il nostro mandato. Queste sono le parole in conferenza stampa di Mario Draghi, presidente della BCE. E queste parole offrono il senso di quel che è successo in Consiglio e probabilmente succederà anche nelle prossime riunioni. E cioè si avvicina al finale di partita tra Draghi, che nei giorni scorsi aveva parlato di agire senza indugi, e gli oppositori alla linea da intraprendere, per esempio sull'acquisto di titoli su larga scala, il cosiddetto quantitative easing, il QE. Prendiamo in considerazione tutte le opzioni meno l'oro, ha detto il presidente della BCE, ma è chiaro che la vera chiave, il vero scoglio, sono gli acquisti di titoli di debito pubblico. È un'ipotesi sulla quale i tedeschi, in particolare il presidente della Bundesbank Jens Weidmann, sono arrabbiati. Hanno definito questa ipotesi di dubbia legalità e la risposta di Draghi è stata questa: non perseguire il nostro mandato sarebbe illegale. Eccolo qui lo scontro, tra l'altro sul Corriere della Sera, l'articolo di Daniele Manca, pagina 3, è proprio questo, il Consiglio diviso, anzi no, è Danilo Taino che ha scritto questo articolo, scusate, Danilo Taino a pagina 3, il Consiglio diviso non frena Draghi, 6 governatori erano contrari all'acquisto appunto dei titoli di debito pubblico, ma dal 2015 dovrebbero partire gli acquisti dei titoli di Stato, così l'intesa sulle azioni non convenzionali. E tra l'altro fa notare il giornale anche Repubblica, ora la stampa tedesca inizia a attaccare Mario Draghi. Ecco, dovete immaginare questo, quindi dietro le decisioni della BCE uno scontro all'interno del board tra Draghi e la linea capitanata dal capo della banca, della Bundesbank, Jens Weidmann. Se veniamo in Italia, spesso si parla di spending review, tagli alla spesa. Se avevamo un commissario, Cottarelli, che fine ha fatto? Può darsi che lo scopriremo da questi microfoni prossimamente. Comunque, che dire, che una spending review è stata fatta, racconta Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera. Forse non era la spending review migliore, ma guardate il titolo di pagina 25 e l'intera pagina: fondi tagliati del 70%, pochi asili nido, l'Italia si arrende alla povertà dei bimbi. Una spending review implacabile, l'han fatta davvero, scrive Stella. Su che cosa? Sui fondi per combattere la povertà. Dal 2008 a oggi hanno tagliato il 69,4% di questi fondi, proprio mentre crescevano gli affanni delle famiglie. La metà di quelle con 3 figli nel sud è in miseria. Lo dice la Fondazione Zancan, è un rapporto della Commissione parlamentare sull'infanzia. La crisi pesa soprattutto sui bambini. Gli ultimi dati del Centro Studi Veneto mettono i brividi: tra il 2011 e il 2013 la percentuale di famiglie con almeno un figlio minore relativamente povera è aumentata di quasi 5 punti percentuali. Era il 15,6% e è salita al 20,2%. La situazione è particolarmente grave per le famiglie con 3 o più figli minori, insiste il dossier. Per oltre un terzo sono relativamente povere. Nel mezzogiorno il quadro è ancora più fosco. È povera più di una famiglia su 3, il 36%, con almeno un figlio minore. È poverissimo il 51% di famiglie che hanno 3 o più figli piccoli o adolescenti. Insomma, siamo il fanalino di coda in Europa per le politiche di riduzione della libertà. E parlano di famiglia, famiglia, fate i figli, ti dicono, fate i figli. Eh già. Come avete notato, non ho parlato e non parlo per un giorno del chiacchiericcio inutile, sterile della politica. È partita la questione del... è partita già da un po' che è partita la questione del Quirinale, il Colle. Addirittura Repubblica da un paio di giorni ha il logo La Corsa al Quirinale. La Corsa al Quirinale, con il Presidente della Repubblica che non si è ancora dimesso. Quindi vuol dire con questo logo che ogni giorno avremo la paturnia quotidiana, l'incubo del retroscena sulla Corsa al Quirinale. Oggi vi leggo solo il titolo: il metodo Renzi per il dopo Napolitano, l'identikit del Presidente scelto dall'Assemblea del PD. Pare che sia il metodo De Mita. Non chiedetemi di più. Andatevi a leggere Repubblica, se volete, a pagina 14. Mentre il Corriere è certo, il profilo a cui punta Renzi è Pierluigi Castagnetti. Ma non chiedetemi di più, andate a leggervelo sul Corriere della Sera. Tanto noi qui abbiamo Er Chitarra, ho detto anche Er Futuro, Er Presidente Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, sono in corsa. Quanti anni hai? Abbastanza. Dai, insomma, ne hai più di 50? Sì. E allora sei in corsa, Meazza e Quirinale, avanti. Corsa. Vuoi lanciare una sottoscrizione? Er Chitarra al Quirinale, Er Chitarra al Quirinale. Non, perché scusa, non posso andare, cosa mi manca? Non è che niente. Per me niente. No, non conosco bene il metodo che hai citato di scelta, di selezione dei candidati, però posso verificarli adesso. Vedi cominciare a far uscire il tuo nome a pagina 15 di un quotidiano attorno alla riga 72. Si comincia così, buttalo lì. Er Chitarra. È vietato usare il Sole 24 Ore, immagino, però come regola mia, cioè sarebbe inelegante, diciamo così. No, va bene. Poi oggi, guarda, sono molto contento. Sono molto contento perché la voluntary disclosure è legge. Oh. No, sei contento? Sì. Finalmente. Sono stato, Mauro, devo farti una domanda, così lo spieghi all'ascoltatore. Sono stato sfrontato su Twitter, ho detto che nomi roboanti per definire un condono, ma forse... No, non devi dire così che poi il governo si dispiace. Si dispiace, no. Si arrabbia. No, non è un condono nel senso che ti vengono perdonate le sanzioni, però sì. Le tasse le chiediamo. Le tasse le paghi, ma le sanzioni no. Un condonino. Però c'hai diverse annualità, tu sti due eurini, quant'è che li tieni nascosti al ministro? Ma in tasca, li tengo nascosti, non all'estero, in tasca. Però comunque non è che sei andato qualche volta, magari sei andato in Svizzera, è stato a Monte Carlo, hai fatto una gita, ti sono caduti i due urini in prossimità di un istituto di credito straniero. È un attimo, sono cose che uno fa anche senza accorgersene. Comunque, se vuoi sapere tutto sulla volontà di disclosure, naturalmente oggi su Sole 24 Ore, due pagine, non enormi tributi, ma più avanti, così non ti facciamo faticare con lo sfoglio, e poi puoi leggere anche il testo del provvedimento sul nostro sito, cioè il testo di quello che sarà brevissimamente legge. Non torniamo sulle questioni del quantitative easing, oggi dobbiamo parlare sempre inglese. Mm-hmm. Ma è previsto l'inglese nella candidatura al Quirinale? Vabbè, ti hanno pagato lo stipendio regolarmente? Perché non l'ho controllato. Ce l'hanno pagato regolarmente? No, perché ora vuol dire che non lavoriamo nella Lazio. Perché oggi ci sono i conti della Lazio e vabbè, come molte società di calcio, diciamo, anche altre prestigiose società di calcio, ha qualche problema di debiti. Sì. Però la cosa carina che viene rivelata da Gianni Dragoni nelle pagine di finanza è che gli stipendi di maggio li hanno pagati a settembre. D'altra parte ci sono in questo momento dei problemi di liquidità, è notorio, e quindi anche le attività pedatorie possono subire qualche ritardo. Vuoi mettere, se tu usi la voluntary disclosure per i tuoi due urini, quelli che ti sono caduti a Monte Carlo, dai, su, adesso senza che finiamo questa mattina, potresti metterli anche tu in un fondo comune. Oggi scriviamo sempre nelle pagine di finanza, ho trovato tante cose da leggere oggi lì, che i fondi comuni sono arrivati alla cifra record di 664 miliardi di patrimonio gestito, ci stanno anche i tuoi due urini, no? Sì. e poi devo integrare una comunicazione di ieri, IMU dei comuni montani, guarda, qui radiofisco devo fare, qui radiofisco, la proroga ci sarà, ma ancora non c'è. Non, lo so, però il fisco è così, credo qui absurdum, avrebbe detto un padre della chiesa. Ci sarà, però ci sarà a gennaio, però in questo momento ancora non c'è. Altro non ti vuol dire, caro fanciullo, quindi vai a leggere nelle pagine di norme e tributi e chi deve capire, capirà. E a questo punto, caro Alessandro, buona domenica e soprattutto traffico. Alessandro Milan, beh, siamo al top. E allora, alle 7:48 minuti, ci sono ancora dettagli sempre più dell'inchiesta di Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa, la morte e l'uccisione del piccolo Loris strangolato con un laccio di plastica. Questo non ci sono indagati, non ci sono sviluppi. Certo, gli inquirenti si concentrano sul ruolo e le bugie della madre. Soprattutto raccontano tutti questa vicenda alquanto strana. Il giorno in cui la maestra di Loris va a fare le condoglianze alla madre, la madre dà alla maestra alcune fascette quelle che si usano che usano gli elettricisti, per esempio, dicendo: ve le restituisco, sono quelle che servivano per le lezioni di scienza. Ma la maestra dice a questo punto, siccome è venuto fuori che probabilmente è stato strangolato proprio con una fascetta, è un'ipotesi, la maestra a questo punto è andata dagli inquirenti a raccontare questo dettaglio, anche perché ha detto: noi non avevamo dato nessuna fascetta per nessuna lezione di scienze. E quindi questo gesto della madre che dice: restituisco a lei, maestra, queste fascette che servivano a Loris per la lezione di scienze, effettivamente è un qualcosa che ora fa scrivere anche al Corriere della Sera: il mistero delle fascette consegnate alla maestra. La madre disse: ve le rendo, erano per i lavori di scienze, ma è un'altra bugia. Vabbè, ovviamente lì si attendono sviluppi. In America invece, io ieri ho visto questo video terribile, inquietante, lo potete vedere tutti su YouTube digitando il nome e cognome di Eric Garner, cioè la vittima di questo arresto avvenuto strozzandolo. Non ci sono altre parole. C'è un poliziotto, sapete che sono abbastanza brutali in America, se ti dicono di mettere le mani dietro la schiena, devi mettere le mani dietro la schiena. Non si può fare i deficienti come quella ragazza che insultava un poliziotto a un centimetro qualche giorno fa a Milano durante la manifestazione. Solo che questa volta il poliziotto all'urlo, mentre questo signore molto corpulento urlava: non riesco a respirare, I can't breathe, continuava a dire non riesco a respirare, lui lo strangolava, è morto nel giro di 2 minuti, tutto ripreso da un telefonino. Ci sono proteste. Tra l'altro ieri in Arizona c'è stato un altro caso di un nero disarmato ucciso da un poliziotto bianco. E allora chiaramente l'America è sul punto di esplodere dal punto di vista delle contestazioni. Anche il sindaco di New York, Bill de Blasio, come Repubblica testimonia nel discorso pubblicato, nel discorso citato dal sindaco in occasione della non incriminazione del poliziotto che ha ucciso Eric Garner, ha detto de Blasio: mio figlio Dante è nero e gli dico sempre di stare attento alla polizia. Questo è il sindaco di New York. Abbiamo dovuto io e mia moglie parlare a Dante per anni dei pericoli che potrebbe correre. È un bravo ragazzo, rispettoso della legge, non penserebbe mai di fare del male a qualcuno, eppure a causa della storia che tuttora incombe su noi tutti e dei pericoli che potrebbe correre, abbiamo dovuto letteralmente addestrarlo e insegnargli a reagire con particolare attenzione tutte le volte che dovesse incontrare uno degli agenti di polizia che lavorano per proteggerlo. Questo il sindaco di New York, anche il giornale titola così: figlio mio attento alla polizia, è bufera sul sindaco di New York. Ma certo, questo video dimostra l'ennesima vicenda terribile. Vado sul Fatto Quotidiano, perché il Fatto Quotidiano con Beatrice Borromeo, che aveva già intervistato per prima Carolina Kostner 2 giorni fa sul doping dell'ex fidanzato Alex Schwarzer, anche oggi Beatrice Borromeo fa un colpo su questa vicenda, e cioè entra in possesso del verbale di Alex Schwarzer ai magistrati. I russi mi dicevano dopati. Pagina 19 del Fatto Quotidiano, Beatrice Borromeo. Carolina usciva di casa alle 8:30 del mattino e io mi facevo le iniezioni mentre ero da solo. Il Fatto Quotidiano è entrato in possesso del verbale dell'audizione in cui Schwarzer ricostruisce i passaggi del doping. Il tarlo che gli era stato messo dopo i mondiali in Corea, quando a una cena i miei colleghi russi Borchin, Kamaikin e Morozov mi dissero che si drogavano. E a quella cena mi dissero: diventa russo e avrai un'assistenza a 360 gradi, incluso il doping. Io raccontai la cosa a Carolina, la mia fidanzata, e lei mi disse di lasciar perdere quello che facevano altri, di concentrarmi su me stesso. Ma io andai anche di nascosto in Turchia, dove tenevo sempre il cellulare acceso perché avevo detto che ero a Bologna e non volevo che scattasse la segreteria telefonica turca. E racconta, insomma, come è franato nel vortice del doping. I russi mi dicevano doping, dopati, e io mentivo a Carolina, ma la procura non gli ha creduto e Carolina è indagata. Ma siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi. Mi sono molto divertito però a leggerlo. Sempre sul Fatto Quotidiano, Camilla Conti va a intervistare Valentina Nappi. E se non conoscete Valentina Nappi, non cercatela come video su YouTube o magari su YouPorn, più che altro. Valentina Nappi, pornostar, intervista sul Fatto Quotidiano sulla finanza, perché lei è la pornostar filosofa che scrive su Micromega. A un certo punto in questa intervista, in cui lei parla della necessità di essere troie da parte delle donne, proprio è giusto da parte delle donne, e poi le chiedono un giudizio sulla politica monetaria della Banca Centrale Europea, ce lo dà a Valentina Nappi, pornostar, e dai! Ma chi se ne frega!